YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Un saluto da Marta Cagnola. Ci troviamo insieme per questo mese d'agosto, ogni sabato, per riascoltare alcuni dei momenti migliori, degli incontri che abbiamo amato di più in questa stagione di RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Cominciamo con questo sabato e con alcuni ospiti davvero, davvero interessanti. Abbiamo detto che i ragazzi chi ascoltano? Mica, sì, vabbè, i professori, sì, vabbè, i genitori, ma ascoltano i loro coetanei. E sai chi i ragazzi adesso ascoltano tantissimo? Beh, io ho un bimbo di 9 anni, lo so. YouTuber. Beh, certo. Allora, tra l'altro io sono contento perché, voglio dire, è una forma di creatività che gli insegna anche un sacco di cose. Cioè, accidenti. Mio figlio a 9 anni già con alcune cose dice delle cose che vede, che sicuramente sono frutto del fatto che utilizza lo strumento tanto. Allora, io voglio farti sentire un pezzettino di un video di uno degli youtuber più famosi d'Italia, no, vabbè, che si chiama che Daniele Doesn't Matter, che proprio dopo aver visto 13 ha fatto un video molto molto carino, molto molto interessante, che inizia così. Ciao ragazzi, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Ho voluto collaborare con Netflix nel farlo perché con l'uscita di 13 ho potuto toccare un argomento di cui non avevo mai parlato, ovvero il bullismo. Dalle elementari fino alla fine delle medie ho avuto anch'io il mio bullo che mi ha tormentato per ben 8 anni. Ed ero arrivato al punto di avere addirittura paura di andare a scuola. Ovviamente non prendeva di mira solo me, e io e i miei amici abbiamo avuto il coraggio, perché alla fine di coraggio si tratta, di chiedere aiuto ai nostri genitori e alla scuola, che prontamente hanno arginato il problema come meglio hanno potuto. Solo che ci ho messo 8 anni prima di trovare la forza di fare qualcosa, e ci tenevo a darvi un consiglio. Non abbiate paura, parlate e fatevi aiutare. Allora, inizia così, insomma, prima c'è una prima parte che però ha solo un audio, perché è una sorta di messa in scena di una conversazione via WhatsApp, molto molto interessante. Ma per sapere qualcosa di più di questo video, della sua attività come youtuber, uno dei più famosi in Italia, ho una sorpresa, ce l'abbiamo collegato qui con noi al telefono a RadioTube, Daniele Doesn't Matter. Ciao Daniele! Buon pomeriggio ragazzi, ah, ciao! Che meraviglia, ciao. Sono... qui i Daniele pullulano, sì. È pieno ma di Daniele. Ma il Doesn't oggi. Matter, come quando è che ti è venuto in mente Doesn't Matter? Ma guarda, è una storia molto lunga, per farla breve, no. Sì, diciamo che quando ho cominciato a fare video su YouTube, diciamo che sulla piattaforma non c'erano molti video creativi, erano più gente che si metteva in ridicolo, e la grossa domanda a cui rispondere era perché lo fanno, okay. Perché non importa come si diventa famosi, da lì Doesn't Matter. Sì, okay. Tu hai cominciato a fare video nel 2009, avevi 22 anni, ma soprattutto come ti è venuto nel 2009 di fare dei video su YouTube? Che cioè non è che fosse così, adesso tutti i ragazzi vogliono fare gli YouTuber, ma 8 anni fa, esatto. 7, quanto fa? Sì, 8 anni fa, sì. Beh, grazie innanzitutto per farmi sentire un vecchiaccio. No, vabbè, no, il padre nobile, capito? Vabbè. Si dicono così, no, ma il maestro. No, di questa posizione. Siccome diciamo noi siamo dei ragazzini, esatto. Certo. Ok. Era il bello di condividere le proprie idee, comunicare dei messaggi e vedere cosa la gente potesse dire delle cose che andavi a comunicare. Quindi era proprio un esperimento volto ad un puro hobby. Allora, all'epoca il seguito di YouTube era così limitato, circoscritto. Adesso per un'intera generazione di millennials, yeah, ma non solo, comincia a essere un mezzo di comunicazione e di intrattenimento alternativo alla TV. Daniele, tu l'hai percepito il cambiamento? Quando l'hai percepito? Beh, chiaramente, essendo stato appunto uno dei primi, vedere questa crescita di persone che si affezionavano a te e cominciavano a salire i numeri degli iscritti, le visualizzazioni, i commenti lasciati ai video, ti rendevi conto di essere importante per le persone che ti guardavano e di offrire dei contenuti che la gente aspettava come un intrattenimento dei classici media, e lì comincia a renderti conto, diciamo che non c'è proprio uno switch preciso, però nel tempo cominci a renderti conto che quello che stai facendo può essere importante per qualcuno, anche solo per strappare una risata, come o come comunicare un messaggio importante. Odio le barzellette, ormai lo avrete capito, ma mi avete chiesto in così tanti un terzo episodio di battute squallide che non potevo non accontentarvi. Quindi con questo video si conclude la trilogia: perché le cose che non fanno ridere fanno ridere, perché vi sentite stupidi ad aver compreso qualcosa di stupido e il cervello reagisce con una risata ad un indovinello cognitivo, meglio noto come barzellette. Ma chi se ne fotte di sta roba? Come mai hai lasciato la tua tipa dopo 2 anni? Troppe pretese. Tipo? Voleva sapere il mio nome. Mamma, ma io sono stato adottato. Non ancora, ma abbiamo messo l'annuncio. Errare è umano. E perseverare è un piede. Prendo 1 chilo d'arance. Gliele metto nel sacchetto? No, zio, le calcio fino a casa. Ehi, James Bond, che ore sono? 15. 8 e 15. Amore, io se potessi scegliere vorrei morire nel sonno. Ninna nanna, ninna oh. Precipitato un elicottero in un cimitero. Rinvenuti più di 400 cadaveri. Qui è sepolto Napoleone. Non tutto, ma buona parte. Ti piace lavorare in psichiatria? Da matti. Perché rispondi alle mie domande con altre domande? Perché me lo chiedi? Siamo intesi? Ma va, devo dare ancora un botto di esami. Limone. Non farà ridere, ma nemmeno cagare. Lo sai bene di avere anche dei... delle responsabilità. Sì, responsabilità, esatto. Beh, ovvio. E come le vedi questa cosa? Ma ti dirò, è paradossale, perché non voglio fare il diciamo quello che si nasconde dietro un dito, però mi rendo conto di avere un grosso seguito, però effettivamente non cambia niente nella vita di tutti i giorni, perché è il mio lavoro, lavoro per comunicare dei messaggi che possono essere condivisi da persone, però non ti cambia la vita, te la cambia nel momento in cui ti rendi conto che sei ad un evento, ad esempio, e vedi che questi numeri assumono delle facce reali, sono persone reali, e cominci a capire l'importanza della cosa che stai facendo. Ecco, Daniele, tu hai detto giustamente che hai iniziato come hobby, ma hai appena finito di raccontare che è diventato una professione. Che cosa è rimasto uguale rispetto all'inizio e che cosa è cambiato ora nel tuo essere un creativo del video su YouTube? Le ore di sonno. Sono aumentate e diminuite, dipende un po' dai tempi. Quando ho cominciato, essendo solo un hobby, avevo un'altra professione che era quella di fare il web designer. Quindi lavorare su YouTube, ovvero realizzare video, era quell'hobby che mi ricavavo durante le ore di riposo, diciamo, dal lavoro. Quando è diventato a tutti gli effetti il mio lavoro principale, ha cominciato a sostituire il lavoro di web designer, quindi la produzione video è diventata più intensa, è diventata più tecnica, e così siamo arrivati a questo punto. Anche perché di competenze tecniche ce ne vogliono, oltre a quelle creative, cioè tanti ragazzi sognano di fare lo YouTuber, ma ci vogliono le idee e anche una buona dose di tecnica. Sì, lo si può chiamare a tutti gli effetti un vero lavoro, perché il lavoro dei creator, dello YouTuber, è quello di diciamo avere una conoscenza base del mezzo tecnico, principalmente il computer, sapere comunicare dei messaggi, sapere che cosa si sta dicendo, e poi conoscere i vari programmi tecnici per andare a realizzare un prodotto il più professionale possibile, quindi i vari programmi di montaggio, conoscere il mezzo come le macchine da presa, le luci, i microfoni, i vari aspetti tecnici come possono essere il green screen, effetti speciali, eccetera, eccetera. Ti è mai venuto in mente di dire non mi va più? Sinceramente no, e fortunatamente no, perché quello che è rimasto invariato in questi anni, nonostante si sia trasformato un lavoro, è principalmente una passione, quindi la voglia di continuare a fare questo lavoro e la passione che ci metto è rimasta invariata, permettendomi di continuare con lo stesso entusiasmo di 8 anni fa quando ho cominciato. Allora, posso dire una cosa che a me piace molto in Daniele e in tanti youtuber, perché io, nonostante non sia una millennial, nonostante non sia una ragazzina, davvero ormai ho nella mia dieta informativa e di intrattenimento tanto YouTube. I video in cui ci si identifica. Allora, vi faccio sentire un pezzettino di un video di Daniele. Ho detto, no, vabbè, ma ti prego, ma sono io. Eccolo qua, quando si va in crisi. Tutto! E dico tutto! Ci manda in crisi! Ma non voglio parlare delle crisi esistenziali! Voglio parlare di tutte quelle piccole cose che ci turbano! Tipo, quando siamo in coda per pagare! Le caramelle fanno 2 euro! Ecco qui! 50! Non hai 2 euro? No, se ti ho dato 50 euro non è che colleziono le banconote di resto! Va bene, ho capito! La crisi comincia quando ti danno il resto! Tu stai mettendo via i soldi e il commesso comincia a servire quello dietro! E lei invece che cosa ha preso? Tu vai in ansia perché stai ingombrando il passaggio mentre stai cercando di mettere via i soldi! Sono queste le cose che ci mandano in crisi! Piccoli avvenimenti di tutti i giorni che non puoi controllare. Tipo quando sei a casa, usi internet da ore, poi vedi l'icona del 3G o dell'LTE al posto di quella del wifi. No. Lo sapevo perché Daniele non l'aveva succede visto. Questa sul è una telefonino roba tremenda. A me succede sul telefonino, mi manda in bestia. Che quando dici, sei no, da giorni senza il wifi. Ho seccato tutta la soglia dei giga. Mamma mia, non me lo dico. Vedi Daniele, Bellasi. Diciamo che è peggio del rosso in banca. È quello che cerco di fare in tutti i video, no? Cercare quegli atteggiamenti e quelle cose che ci accomunano e renderle divertenti. Grazie, grandissimo Daniele. Daniele doesn't matter. Io continuo a seguirti con grande immedesimazione e grande Monferrato, mi raccomando. Ah, vedi quei piemontesi che vengono gemellaggi fuori. Ciao Daniele, ciao. Grazie. E adesso una piccola pausa. Tutti vanno in crisi. A me basta essere fermo al semaforo in macchina. Preghi di non essere il primo della coda, ma lo sei sempre. E lo sai benissimo che cosa succede quando sei il primo della coda ad un semaforo. Dai, dillo tu. Arriva il lavavetri. Esatto. Nessuno può fermare il lavavetri. Figa zio, ti lavo il vetro? No, grazie. Dai, cazzo te, ne lo lavo lo stesso. È già pulito. No, ti dico che è sporco. Guarda, non ho neanche soldi. Che potenza, dai, lo lavo comunque. E lui se ne fotte altamente delle tue suppliche. Ed è in questo momento che va in crisi. Perché per la rabbia dimentichi come funziona la tua macchina. Vorresti far partire semplicemente il tergicristallo per terrorizzarlo e invece fai partire le quattro frecce, accendi la radio, spari l'aria condizionata e fai partire il liquido per pulire sporcando i vetri. Con due, te lo dicevo che era sporco. YouTube. Eccoci qua, Daniele, che bello, abbiamo parlato di argomenti lievi e anche molto seri. Sì, soprattutto mi piace questa puntata tutta sui social network. Allora, ci aggiorniamo un po', perché allora, noi, allora. Facebook. Io lo uso poco però. Il personale, il nostro second self, il personale, sì. Poi, foto. Twitter tanto per informarsi. Per lavoro, tantissimo. Come diceva Dick Costolo. Sì, poi per guardare la TV, per eccetera. Instagram per commentare la TV. Sì, però siete voi che fate questo lavoro, non è che ah, tutto no, il mondo. Ah no, cioè, no, ma infatti io ho la mia timeline da soli. Sì. Poi basta. Instagram mi piace tantissimo. Instagram mi piace tanto. A te cosa piace adesso? Adesso questo è tutto preparato, cari radioascoltatori. Io sono 2 mesi sì, che parlo solo di Medium. Mm. Allora, Medium è il social network più bello in assoluto. Sì. Ed è per questo che è in crisi. Però devi sapere, no? Però devi sapere che nel momento in cui io ho deciso, ho detto adesso basta, vado, lo uso, cerco di capirlo e vediamo se funziona. Dopo due giorni? Dopo 2 giorni, agenzia che esce. L'ex segretario, nuovo segretario, ex presidente del consiglio Matteo Renzi ha aperto un blog. E dove l'ho aperto questo blog? Su Medium. Perché il che mi ha mandato, che avevi aperto, esatto, tu, allora ha detto vabbè, mi ha mandato bella in crisi 2 volte. La prima perché ha fatto la scelta mia e a 2 giorni di distanza, che mi devo fare delle domande, dare delle risposte. La seconda è che però lui l'ha definito un blog su Medium e invece io ero entrato su Medium pensando che il blog fosse un'altra cosa, pensando che Medium, per dirla in parole semplici, fosse il social network di chi vuole scrivere un po' meglio in una grafica più bella, con delle immagini più belle e anche delle storie un po' più lunghe. Chissà cosa ne pensa un super super super esperto. Allora, nella sua bio di Twitter si parla di digital marketing, comunicazione, formazione, parliamo di brand journalism, reputation, native advertising, comunicazione politica, community e influencer, insomma tutto. Il nostro uomo, esatto, il lui nostro sa di uomo tutto. Per questa, e adesso voglio anche sapere cosa ne pensa di questa tua visione di Medium. Bentornato a RadioTube a Chiocciola Ezechiel Luca Lagna. Ciao Luca. Ciao Marta, ciao Daniele, grazie della presentazione. Allora, cosa ne pensi di questa visione di medium di Daniele Bellasio? Ha ragione lui o ha ragione Renzi? No. Non ha tutti i torti, non ha tutti i torti. In fondo medium è un ibrido comunque. Il suo vantaggio rispetto ai blog del passato è che c'è dietro una comunità, una community, anzi una serie di community molto, molto attive, molto interconnesse tra loro. Quando si scrive su Medium, ci avrete fatto caso se lo avete provato, è molto facile diffondere i propri contenuti perché c'è sempre qualcun altro che ti leggerà. Mentre sui classici blog chiaramente poi bisogna farsi conoscere in altri modi. Allora, giornalisti, scrittori, esatto, appassionati di scrittura, esatto, e di un certo tipo di contenuti anche magari settoriali, perché ad esempio, esatto, a me che piace molto la musica, mi piace, io seguo le publication, ci sono le publication, certo, che è fantastico. Ma ho notato che non c'è solo tanta attenzione alla parola scritta. A un certo punto siamo stati sommersi da Instagram, dalla parola fotografata, cioè dalla comunicazione per immagini statiche. Adesso che cosa facciamo? Tutti video? Videini per comunicare, Luca? Eh sì, bisogna dire che il contenuto testuale, dunque no, non sta passando di moda ovviamente, continua a resistere, resisterà e ci sarà sempre. Però c'è anche una nuova generazione che sta spingendo e portando avanti moltissimi contenuti video. E tra l'altro non solo video, allora vediamo per esempio che Twitter, è proprio l'annuncio, no, recentissimo, ha fatto degli accordi e vorrebbe diventare una sorta di canale TV, vorrebbe inserire dei canali TV a partire da Bloomberg fino allo sport e altre cose, con contenuti dedicati alla piattaforma. E così allo stesso modo sta puntando da tantissimo tempo Facebook, no, sui video, quindi ormai il video è uno dei contenuti più diffusi su Facebook. In Italia la seconda piattaforma più diffusa è YouTube, come certo, quantità di persone è quasi a livello addirittura di Facebook. E ha una comunità vastissima, no, di creatori di contenuti, anche giovani, soprattutto giovani, che riescono a guadagnare. Ma come tendenza i social network in questa fase tendono a continuare a copiare un po' le parti degli altri social network concorrenti o restano fedeli all'identità originaria dello stesso social network? Perché è rischioso, a volte si è tradizionalisti, no? Gli utenti sono tendenzialmente tradizionalisti, quando Twitter copia qualcosa da Facebook subito critica, ah no, era meglio prima, Twitter deve restare Twitter e viceversa. Qual è la tendenza oggi? Sì, apparentemente la tendenza di tutte le piattaforme è quella di richiudersi su se stesse, quindi di trattenere il più possibile gli utenti al loro interno e quindi cercare di fornire all'interno gli stessi servizi che magari potrebbero utilizzare su altre piattaforme, no? L'esempio più recente e clamoroso è stato l'introduzione delle storie, sì, queste storie che ormai ci inseguono dappertutto, su Facebook, su Messenger, su Instagram. Grandissima fan delle stories su Instagram, mi piacciono tantissimo e io trovo che siano che sia la versione over 30 di Snapchat. Cioè io ho provato a usare Snapchat per adulti. Sì, allora io provo a usare Snapchat, ma mi seguivano in 14 perché avevo tipo 14 amici su Snapchat. E allora ho capito che dovevo, siccome le stories mi piacciono tanto, questi videini di 10 secondi oppure la foto con la scrittina eccetera eccetera, mi piacciono un sacco e lo faccio con Instagram, che almeno, cioè, non mi sento sola. Sì, è vero, nasce ovviamente questa tendenza con Snapchat, che è una piattaforma che è molto orientata ai giovani. Bisogna dire che ultimamente si sta aprendo anche a fasce di età più adulte, si sta anche essa stessa aprendo a funzionalità che prima erano di altre piattaforme, perché per esempio adesso su Snapchat si può fare la ricerca degli altri amici, quindi magari ne potevo trovare, sì, qualcuno in più. Esatto. Che brutto fare degli trovavi, snap da sola, no. Così, no, però è vero piena che, di buona volontà, ma sola. Però è vero che inizia a prendere un pubblico un po' più adulto, perché inizia a trovare citazioni di Snapchat nei pezzi di cronaca, certo, nei pezzi di politica sui giornali, quindi vuol dire che si sta un po' allargando. Prima era lo Snap, era una cosa che proprio non finiva mai, mentre il post di Facebook o ha twittato ormai è nelle cronache dal presidente degli Stati Sì, Uniti, soprattutto in Italia, perché ad esempio, esatto, so che in alcuni paesi gli Snap, Reddit, Ask sono cose che da noi sì, però invece in altri paesi proprio nella comunicazione politica li usano, no Luca? Sì, sì, la politica è la prima forse a sposare sempre, quasi in ogni nazione, le ultime novità di comunicazione. Prima stavi parlando all'inizio di Medium, e effettivamente Medium è stato fino all'anno scorso una piattaforma nel quale il testo politico, in cui è sbarcata anche la Casa Bianca di Obama, eccetera, era molto frequente, molto, molto diffuso, quindi si stava orientando in quel modo. Poi ovviamente ha fatto dei cambiamenti, adesso recentemente appunto è tornato indietro. Ma tornando un attimo a Snapchat, anche Snapchat si sta dirigendo nella direzione di avere dei, come si può dire, degli strumenti, dei device, cioè questi occhiali che loro vendono, attraverso i quali si possono fare degli snap e quindi girare dei video senza più nemmeno usare il cellulare, quindi qualcuno ti sta guardando, in realtà sta girando un video no, che allora, finisce su Snapchat. Mi hanno spiegato qual è il segreto, però me l'ha spiegato l'amica Daniela. Allora tu fai uno snap, perché così ci metti tutti i filtrini un po' da stupida, poi te lo salvi e lo condividi con Instagram Stories. Ma dai! Sì, perché Snapchat ha i filtrini più carini. C'è l'unicorno, la lingua con l'arcobaleno, fiorellini in testa. E sono concorrenti, invece vengono usati in parallelo. Ma non lo diciamo in giro. Ah, non lo diciamo. Luca, ti faccio una domanda da 10 milioni di dollari. Ma Zuckerberg a parte, cioè qualcuno ci ha fatto i soldi? Perché, insomma... Come? No, nel senso che, allora, Twitter non si sa mai come sta. Ok, Medium sta cercando il business model. Appunto, cioè Zuckerberg a parte, sono ancora YouTube lì. Mi pare che stia messa YouTube, bene. Vabbè, diciamo che YouTube, LinkedIn, Google... LinkedIn sta messa bene. Quindi, non tu so. Cosa dici, forse siamo abituati a pensare di fare i soldi in un modo, insomma... diverso, perché poi in realtà queste aziende sono ampiamente finanziate dalla borsa, dagli investitori, quindi di fatto non gli mancano i soldi. Medium è proprio un esempio di questo. Medium non ha mai fatto nessun tipo di profitto, di nulla, ma nonostante questo è un progetto che continua ad andare avanti, cambiando continuamente anche l'obiettivo, persino questo, quindi... Twitter una cosa simile, Facebook sta iniziando a fare utili con la pubblicità, advertising, Google li fa da tempo, ma in generale c'è molto finanziamento, capitale di rischio, borsa, e con questo si pagano anche stipendi e tante altre cose, quindi diciamo che cambia anche un po' il modo di fare business. Vero, verissimo. C'è il futuro, Cioè, il bello della finanza è anche quello, c'è il futuro. Di quanto futuro stiamo parlando in questa puntata di RadioTube? Mi sento quasi futurologa. Sì, un pronipote. Le ricordi i pronipoti, quei cartoni animati Jetsons? No, erano bellissimi. Vabbè, niente, ho fatto subito l'anziana. Grazie a Luca Lagna, chiocciola Ezekiel con la K, per essere stato con noi. Puoi seguirlo su Twitter, è sempre una miniera di informazioni preziosissime. Ve lo consigliamo. Grazie, ciao. Luca, grazie mille, buona serata. Grazie, ciao. Oddio, amo Instagram, ha copiato Snapchat con Instagram Stories. Wow, cioè top, adoro. Sai cosa significa questo? Che romperemo i coglioni alla gente con i nostri inutili video di merda sulla nostra insulsa vita, non solo su Snapchat ma anche su Instagram. Ma no, amo, che possiamo fare le faccine da cagna anche qui. Oddio, sì, è vero, che bello! Dai, proviamo! Ma no, amo, qui non possiamo diventare delle cagne. Oh, tranquilla, teso. Lo siamo anche senza filtro. Giusto. Esci la lingua! Esci la lingua! Dalla più grande cacciatrice di fossili all'uomo che voleva andare su Marte, dal profeta della rivoluzione sessuale all'uomo che provò il Big Bang. 5 storie di scienziati che hanno cambiato la nostra visione del mondo. E noi vi racconteremo e vi suoneremo le loro storie. Tutto questo a Sound of Science, le idee della scienza con le parole della musica. The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino. La domenica alle 15 su Radio 24. Radio Tube. E ci ritroviamo insieme ancora per il meglio dei nostri incontri di RadioTube, ancora con Marta Cagnola, con Daniele Bellasio. Dai cavolo, mamma! Matteo! Dai, Matteo, dai, Matteo! Che... Dai, Matteo, che siamo in ritardo! Dai, Matteo, andiamo! Dobbiamo andare! Andiamo, Matteo, dai, che non vedo l'oro! Dai, vai! Matteo, la cintura! Hai una mano sul volante! Matteo! Matteo, non è possibile! Ogni volta che vedi la macchina tu... Non vogliamo mica fare come lo scorso video, mamma! Infatti, non è ancora in posto guidare! No, guida tu, stavolta, guida tu! Hai guardato prima di aprire! Guida tu! Guido io, va bene! Dimmi te, se dobbiamo fare come lo scorso video, dai! Stai zitto, adesso la tua mamma ti fa vedere come si guida, ok? Allora, tolgo il freno a mano, guardo gli specchietti. Ma sei seria? Non c'è nessuno. Ma è uno scherzo? Salve! Mamma, è 3 chilometri più lontano, la precedenza ce l'hai tu però, eh! Matteo, mi stai mettendo caldo? Ok, vado. Mamma, fa caldo, posso aprire i finestrini? No! Matteo, consuma di più, l'ho letto a scuola guida, che consuma di più l'autovettura. Se non hai studiato a scuola guida. Possiamo andare a una velocità superiore ai 20 km orari? Matteo, lo vedi col cartello? Lo vedi? C'è scritto 30 km orari, ok? Bisogna rispettare i limiti di velocità. No! E basta! Mica un'ora che sta là, che cazzo vuoi? Basta! Non hai mai visto una donna con i baffi? Non hai mai visto una donna con i baffi? È mia mamma! Non mi tocca la mia mamma! Matteo! Loro hanno qualcosa come 2 milioni di follower su YouTube, hanno dei numeri pazzeschi sui social network, ma è perché sono molto, molto, molto amati da tutti i ragazzi. Io li conosco da pochi minuti, ma già li amo profondamente anch'io. Escono ora con un libro a fumetti, ma mi sembra molto, molto, molto di più, che si chiama Una mamma per nemica, edito da Mondadori. Matte Bise in carne e ossa! Finalmente! Buongiorno. Cioè, gli ascoltatori di RadioTube li conoscono perché, Daniele, quanto citi Matte Bise? Io, tipo, questa trasmissione va in onda inopinatamente da 3-4 anni, no. Tipo da da 2 anni. Perché io ho un figlio di 8 anni e mezzo, voi dovete sapere. L'abbiamo traumatizzato. No, assolutamente, anzi, voi state accrescendo moltissimo la considerazione che lui ha di me. Certo, perché adesso sono qui, non gliel'ho neanche detto. Si arrabbierà. Perché non mi hai portato papà? Guarda, vabbè, che non sono cavoli tuoi. Hai ragione. Vedrai. Secondo me, però. No, ma ci sono delle regole, non possono entrare qua a posto di lavoro la 626, non lo so se c'è ancora. Comunque. Cioè, lo facevi entrare così a. Di straforo, ma me l'ha detto. No, non si può. Noi qua. Di sfroso, vabbè, come diciamo noi dalle mie parti. Allora, su Instagram 2 milioni, una testa. Uno a testa. Perché ne avete uno di Matte e uno di Bise. Io non pensavo che su Instagram ci fosse così tante persone in generale, cioè, hanno più follower loro delle persone che ci sono su Instagram. Allora, vabbè, posso chiedervi, Matte Bise, cioè Matteo Valentino, come siete diventati star? No, intanto come siete diventati youtuber, così lo spieghiamo. Allora, lo youtuber nasce da me, Matt, nel 2009, ed è successo che sono stato bocciato a scuola. studiate ragazzi. Cioè, e quindi è successo che mia mamma non mi faceva più uscire di casa, giustamente, no? Come punizione. Allora ho detto, qualcosa mi devo inventare. Niente, ero a casa. Quando diceva, andiamo a fare la spesa. Io, cavolo, sì, subito andiamo a fare la spesa. Perché non che figata! Era il mio unico svago. Wow, sì, andiamo carrello a comprare la carne. E io sono uscito. Insomma, ero quanto a casa. Quanto tempo sei stato rinchiuso? Un mese da contratto. Ecco perché è diventato così. Cioè, un mese da contratto. Tu lo conoscevi già, Bise? Sì, però non ci vedevamo perché lui era rinchiuso in casa. Cioè. Comunque, un mese da contratto chiuso, poi sono stati 26 giorni, io li contavo. C'è stato uno sconto di pena. E niente, qualcosa dovevo fare. Mi sono inventato a fare questi video, che poi in realtà noi non nasciamo con voler diventare webstar. È nato per gioco, per sbaglio, perché l'abbiamo caricato e non sapendo, diciamo che era un mondo successo. Tutto diverso, ma si parla di 5 2009, anni fa, ma certo. Era tutto diverso completamente, quindi era proprio un iniziare per diverso, cioè filmare le cavolate che si fanno. Eravate pionieri, diciamo, eri tra i primi. Sì, lo facevamo. Un altro aneddoto è che lui quell'anno è stato bocciato insieme a me. No, sì. E per quello abbiamo iniziato a legare. Ma scusa, e lui per tu castigo no? Sì, però no, era un castigo che sì. È per quello che è iniziato lui, perché è iniziato, poi lui mi ha raggiunto con un altro aneddoto interessante. Sì, interessantissimo. Ho detto, senti, avrei bisogno di una comparsa. Non c'è problema, però dovresti travestirti da donna. E così è stato. Infatti, poi io ho detto subito, non c'è nessun problema. niente, poi beh, da lì nasce cosa, ci siamo uniti sempre di più nel bene o nel male, nell'amore, diciamo, nella che vita. Se siamo arrivati qua è anche grazie alle persone che ci seguono, perché c'è stata la richiesta, nel senso abbiamo caricato questi tre video e se no non ci fosse stata la richiesta da parte dei nostri fan, io non li chiamavo neanche fan, perché nel senso erano solo persone che guardavano, cioè nel senso non si erano neanche affezionati come pubblico, hanno iniziato a fatene altri, io no, ma che fatene altri. Allora poi mi sono accorto che ne volevano altri, io li facevo per loro e poi tutto. Cioè, quindi era la domanda che ha creato l'offerta. Bravo, bravo, bravo. Cos'è inflazione? Ma no, perché qui siamo a Radio 24, le lezioni di economia. Fantastico. Di Matte Bisa mi piacciono tantissimo. Dopo vi chiediamo di la finanza. Ah, no, ok. Vai Marta. Secondo me non è la parola giusta da dire finanza, perché, ma perché? È un tema come, sì, come infatti, tanti. Cioè, non c'è nessun problema di parlare di... Avete mai fatto video youtuber su argomenti così finanziari, economici? Preferiamo non rispondo. Chiamiamola della facoltà di non rispondere. Ma perché no? Ma scusa, il Nasdaq oggi? Nasdaq, cioè, è vivo, è vegeto, okay. Lotta insieme a noi, pensa. E il Dow Jones? Il Dow Jones è più anziano. Ma no, sono preparati, beh, ragazzi. Beh. Il Nasdaq è un po' il figlio del Dow, certo, Jones, che è un po' il signore. Beh, noi, po'... se ti può interessare, noi, sì, uno dei nostri format più importanti sul nostro canale sono le Made In, dove andiamo a mangiare del cibo locale, molto spesso schifoso, nel senso andiamo a cercare andiamo proprio... a cercare il cibo più strano, diciamo, ecco, non cercare... quelli più buoni, esatto, quelli che... E siamo andati a New York e siamo stati a Wall Street, se vi può interessare. Ah, e cosa è successo a Wall Street? Niente, abbiamo posso dirlo, abbiamo toccato le palle al toro. Sì, dicevano che portavano fortuna. L'abbiamo fatto insieme e speriamo che ci porti fortuna per il futuro. Wall Street, bello. Poi mi ricordavo proprio di essere nel film di DiCaprio, quindi è stato bello. Ciao amici, siamo Matt e Bise, siamo qua a New York per fare la Made in USA Challenge. Siamo qui nella nostra casa a New York, già lo sapete, abbiamo passato qui il Natale. Se non avete visto il video vi lasciamo il link qui nella scheda o sotto in descrizione. Non potevamo non andare a cercare il cibo più brutto degli Stati Uniti d'America. Siamo andati in un supermarket, mangeremo le cose classiche americane, ma fondamentale, alla fine faremo la sfida a chi mangerà più ciambella di Homer Simpson. Quindi mi raccomando, guardate tutta la sfida. Ma oltre a mangiarle abbiamo deciso di fare una cosa carina, sì. Non ci sarà la penitenza come tutte le altre Made In. Girando per New York ci siamo resi conto che ci sono un sacco di persone senza tetto. Abbiamo che deciso hanno di freddo, non mangiano. Abbiamo deciso di donare queste ciambelle, non queste perché ce le mangiamo noi, altre più tardi. Quindi chi perderà la sfida andrà a donare queste ciambelline a uno dei tanti senza tetto che è a New York. Noi vi chiediamo 150.000 like per la prossima Made In. Scrivete qua sotto dove volete che facciamo la prossima Made In, cosa mangiamo, scriveteci, o niente. E iniziamo subito la Made in USA Challenge! Dai, parliamo un po' dei video che fate, perché appunto video di viaggi bellissimi, sì, appunto questo New York favoloso, scherzi pazzeschi, video la con la mamma. La mamma è sempre la mamma. No, allora spieghiamolo per gli ascoltatori che ancora non li conoscessero e che quindi poi andranno a iscriversi per 2 milionesimi al canale di Matte Bise. C'è il format della mamma, ma non è che avete preso una delle due mamme vere. In realtà la mamma nasce per la fusione delle nostre mamme. Sì. Le cose che facevano le nostre mamme, magari una è più apprensiva, l'altra più, le abbiamo più esasperata, ma esasperata non sempre. Cioè, sai, tutte le mamme d'Italia diventano esasperate perché i figli li fanno impazzire. Infatti la mamma in questo libro non è cattiva, non è Lucrezia, una nemica cattiva. E Marilena cattiva sono le vostre, sì, mamme, che io saluto perché sono ringraziate. Ciao, nel libro. Ciao mamma, l'abbiamo scritto apposta così almeno sì, per lecchinarcene un po'. Giustamente. Sì, e quindi avete preso ovviamente un'attrice protagonista per far la mamma. Sì, che è un'altra, certo, persona in realtà. È un'altra persona. No, non sono io assolutamente. Con la parrucca. Ecco. Qualcuno, qualcuno dice ma mamma Bise per caso è Bise con la parrucca. Dico, no. Che poi c'è un po' di somiglianza, ma vabbè. L'inizio, cioè, di questo personaggio qui è stato fatto proprio solamente, cioè, l'avevo interpretato io, ma a caso. A male, dicevamo, okay, perché noi facevamo le cose che potevano succedere a tutte le persone, le rifacevamo in un video. Cioè, noi siamo due ragazzi normali che sì, fanno arrabbiare le mamme, come tutti i ragazzi adolescenti. Ma i vostri genitori come l'hanno presa questa cosa? Cioè, un po' i video, cioè, sono e un i genitori di Matte Bise. Esatto. Perché... diciamo che non sono proprio così, no, però certo, è il loro momento massimo. tento sempre, diciamo, capito? Cioè, mia mamma quando è... All'inizio quando vedevano questa cosa proprio come... Ma andate a lavorare, cosa fate? Certo. Il video. Perché non lo capivano assolutamente. E adesso? Ma neanche adesso noi. La medaglia si è invertita completamente. Da che ci dicevano, smettete di fare queste cose su internet, andate a trovarvi il lavoro. Adesso davvero. Sono diventate... Che adesso mio padre, che non aveva nulla, cioè non aveva niente, neanche WhatsApp, adesso ha Facebook, tutto. Snapchat, Instagram. Instagram Story, guarda tutto. Avranno anche loro i fan. Sono i nostri assistenti personali. No, all'inizio pensavano li prendessimo in giro, cose del genere, no? Poi... Mentre il successo stanno iniziando a imparare, no, come hanno iniziato gestire, a capirlo, no? Anche perché non è semplice come cioè, cosa da capire. Li abbiamo invitati a uno stream store perché ho detto, beh, vieni con noi al nostro evento. E hanno visto che c'era l'evento, 2000-3000 persone. E loro hanno cominciato a dire, ah, la cosa è seria. E voi invece come lo gestite? Noi cioè abbiamo messo alti e bassi. Allora, aspetti negativi, che è una cosa che purtroppo piano piano abbiamo iniziato a cambiare il numero di telefono perché l'hanno trovato. Sì. Il citofono di casa l'abbiamo staccato, non arrivano le bollette. Ci abbiamo la carovana di gente sotto casa. Sì. Mm-hmm. Se vuole fare una foto con noi, però noi cioè non possiamo invadere la privacy fino a questo punto. Mentre il lato positivo è che non paghiamo all'autogrill. Top. Non paghiamo mai. No, cioè, andiamo in un ma posto. Ma questa è una cosa bellissima. Andiamo in un posto. Mettete i miei figli, caffè gratis. No, e noi, cosa prendete? Caffè a breve. Magari tu non vuoi niente, capito? Poi tu fai anche il gesto così, no? Del tipo, no. Allora cosa prendete? Ti devo qua. No, è fantastico. No, siete molto sinceri, perché ma secondo me questa cosa succedeva all'avvocato Agnelli, vi ricordate? No, perché però, sì, però io non so San se Torino, lì eh, c'è Juventus o Toro, dove? Da quelle parti qua. Lì. Io sono del Toro. Bravo! Perché bravo. Nella mia famiglia è tutta del Toro, io sono del Toro, nella vita mi piace soffrire per poi quando hai una piccola cosa bella te la godi molto di più. Da ma interista cosa non ti sposo proprio su tutta la linea. Vai. Mette invece. E invece Matt, scannatevi 3, 2, 1. Via. E Juventino, vabbè. A me non me ne frega nulla. Non è vero! Non è vero! No, falso! Allora, in realtà, se vogliamo parlare di calcio, ma questa è anche una cosa che bisogna imparare quando diventi. Non dice la diventi squadra, un personaggio. Oh, ha ragione, non ti tu, devi schierare. No, una cosa che. Una roba che di si target. Dice che se si può evitare. Sì. Visto che noi facciamo comicità, che poi comunque qualcuno. Voi fate comicità? No, diciamo, lui, ecco, infatti, io non stavo per. Noi facciamo comicità per alcuni. Comunque, facciamo intrattenimento. Secondo me, una delle cose più professionali da fare è evitare di. Schierarsi politicamente e addirittura anche per quanto riguarda le scuole di calcio, perché purtroppo abbiamo ancora Italia. L'italiano classico medio che se io sono del Milan tu interista non mi segui, se io tifo la Lazio tu romanista non mi segui, e quindi cerchiamo sempre di evitare, però comunque la simpatia verso una scuola di calcio c'è ovviamente. No, niente, io tifo Milan, però non mi... No, ma Milan va benissimo. No, seconda squadra di Milano si può. Vabbè, ma quindi... Allora, però no, ti ripeto, non so neanche, cioè per me Milan siamo rimasti Kakà, Shevchenko. Ecco. E siamo rimasti, sembra che sei vecchissimo, scusa. Beh, l'ultima cosa che mi ricordo del Milan è la Champions League con la Juventus. Beh, è rimasto un po' indietro, ragazzo. Vabbè, ragazzi, basta col calcio, è il momento di una brevissima pausa, ma poi saremo ancora insieme con Radio YouTube e soprattutto con Matt e Bise, a tra poco. Ciao amici, siamo Matt e Bise, Matt e Bise, siamo in Polinesia. Guardate che bel paradiso terrestre, ragazzi, in cui ci troviamo, fantastico. Ragazzi, oggi vi faremo vedere tutte le nostre avventure qua in Polinesia. Ragazzi, siamo andati alla ricerca delle balene, squali, anche gli squali, ragazzi, abbiamo fatto davvero tartarughe giganti. Ma quale bellissima altra occasione per non provare il cibo locale, ragazzi. Quindi io direi che questa è a tutti gli effetti la Made in Polinesia. Se questo video raggiunge i 200.000 like, ragazzi, 200.000 like, prossimo spasso in viaggio per il mondo, ci direte voi quale parte del mondo andare, lo scrivetelo nei commenti, noi prendiamo l'aereo e andiamo a fare la Made in Cambogia challenge a caso. Beh, ragazzi, buona visione. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta. RadioTube. Chi siete? Mette Peter. Ma in realtà? Matteo. Valentino. Quanto tempo su YouTube? Dal 2009. Dal 2011. Da quanto tempo fate video di merda? Beh, sempre dal 2009, nel senso non siamo cambiati. Abbiamo deciso di cambiare solamente la qualità, il contenuto è rimasto sempre terribile. Da sempre, penso per sempre. Il tuo video preferito? Il mio video preferito è uno dei più recenti, Natale a New York. È stata un'esperienza molto significativa per me, anche per Miss, immagino. È molto bello, mi piace il montaggio, mi piace tutto. Vorrei tornare a New York domani. Senz'altro i nostri viaggi, Dubai, New York, diciamo quando viaggiamo, sono i miei preferiti. Da chi copiate? Dai Pantellas. Diciamo da un po' tutti. Cioè prendiamo spunto da tutti gli youtuber per creare una cosa nostra. E siamo ancora con Matte Bise, milioni, milioni, milioni di follower, tanti fan, soprattutto Daniele Bellasio che sì, siccome poi voglio anche diventare un grandissimo youtuber, raccontateci un po' Matte Bise come youtuber. Ci definiamo un po' fuori dagli schemi, almeno penso, come youtuber, cioè siamo... Facciamo parte di YouTube, ma siamo molto aperti a qualsiasi cosa, non rimaniamo solo. Diciamo che a noi piace, cioè se ci butti a fare altro, come è già successo, magari in televisione, se certo. Cioè, magari ci sono delle persone, che non è assolutamente una critica, che li metti fuori da internet, si trovano spaesati completamente. Noi la cosa positiva è che non facciamo gli scemi, cioè, non siamo scemi, nel senso, siamo diversi da come siamo, esatto. Quando giriamo un video nostro, cioè se siamo in cameretta siamo uguali identici a come sì. siamo realmente, cioè adesso siamo in radio, siamo così sì, anche cioè, nella vita potremmo essere anche peggio, però sì, ci tratteniamo, sì. La differenza è che magari qualcuno interpreta un personaggio su YouTube e poi sì. nella vita reale è un altro, e quindi quando poi lo spiazzi fuori dai tuoi schemi di internet, fuori dal web, il nostro primo libro collegandoci è Mondadori, che è Mondadori, grandissima Alice, Alice è una grande, Alice mi raccomando, supporta, se no è fantastica Alice, mi raccomando, e qui dici, li metti fuori, si trovano un po' spaesati, però insomma noi siamo comunque aperti a tutto, vedremo il futuro cosa ci porterà, ma che noi, cosa che e cosa noi proveremo fare? Tutte ma le io cose vorrei fare so, Sanremo, volete andare a Sanremo? Allora fra 20 anni siamo a Sanremo, promesso. Io voglio comprarmi io non so se sarò qua perché ho una certa età, però aspetta, ma non ti ho detto a fare Sanremo nel pubblico. Ah, ok. Vabbè, dai, che te lo dico. Saremo, dai, ma che te. Ah, Matte, questo cantiere doveva finire nel 2017 e invece siamo ancora qua. Guarda, l'Italia guarda, sempre peggio. Non me ne parlare. Sempre. Ma perché non ci facciamo uno di quei video che andavano bene quando eravamo giovani, quando avevamo 1 milione di iscritti? Perché? Perché no? Ma sei invecchiato male, però, Ma ti sei visto? Vabbè, andiamo a fare questi video. Ciao amici, siamo Matte Bise. Aspetta, Matteo, siamo ritrovati qua oggi per fare un nuovo video. Sì, facciamo un video vecchio della nostra età, non so se ve lo ricordate. La bombiola passi, funzionava tanto. La bombiola passi challenge. E a 150.000 like faremo un nuovo video. Ok, cerchiamo un po' di ragazze su Badoo, guarda che bello il nuovo logo. Ma ricordiamoci che a 150.000 like faremo un nuovo video. Va bene. Che immagine hai messo? È un'immagine. Sei più vecchio del sol. Ma ricordiamoci che a 150.000 hai già detto. Posso chiedervi come prendete invece le critiche? Le critiche. Perché allora, sui social la gente sì. è anche piuttosto cattiva. Abbiamo una cosa che non mi spiego per niente. Vi criticano ogni tanto? No, è quello che fa. Abbiamo davvero davvero poche critiche. Capita raramente, perché le persone che insultano, no, sono dei fifoni, poi sono dietro la tastiera, è tutto facile, no? Quindi dove vanno a commentare? Dove già un contenuto è già insultato. Quindi è più facile. Se si tu invece casa, vai sotto un contenuto che ha tantissimi ti amo, andare là a insultare, poi ti becchi tutte le fan che insultano haters. Ha detto non lo le fanno. Fan. Occhio che ha detto sì, le fan. Perché le fan sono quelle che interagiscono di più. Le. Anche ci sono anche tanti maschi che ci seguono. Lo dico perché siamo alla radio, perché sono proprio bellini. Ma non è vero per niente questa cosa. Allora, secondo me le fan. Allora, posso dare un po' di date? Scusa. Allora, Stezzano, Roma, Taranto, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Catania, Grosseto, Napoli, Siracusa, Palermo, Roma. Cosa vi pare di tutti questi in store con tanti ragazzi di tutta Italia che vi prendono ad esempio, vi vogliono bene, vogliono fare gli scherzi come li fate voi, ma anche le cose cosa più serie? Ogni tanto comunque, oltre a fare i cretini, no, ci fermiamo a dire, ehi, comunque le persone fanno quello che facciamo noi. All'inizio non lo capivamo, no? poi quando ti vengono all'evento e fanno la stessa cosa che tu hai fatto, dici, ma aspetta, ti senti devi fare attenzione perché tu non sai che stai facendo questo video e un bambino, un ragazzino ti copia. Abbiamo un potere negativo o positivo, nel senso, sì. Abbiamo 2 milioni di persone su Facebook che ci seguono, altrettanto 1,5 milioni su YouTube, che comunque sono ragazzini. Una parte. Anche quando facciamo i video della mamma, che comunque molto spesso la mamma insulta Matteo, sì. Ma lo fa a uno scopo, nel senso, se Matteo insulta, la mamma insulta Matteo è perché deve dire non drogarti, non fumare, non... E sempre comunque i nostri video hanno un'etica morale alla fine, sì. Perché noi comunque abbiamo un messaggio da mandare ai nostri fan. Questo Daniele, cosa ne pensi da papà? Da papà io intanto vi posso raccontare che Rocco ha già scaricato 2 applicazioni per fare montaggi di YouTube a 8 anni e mezzo, queste era a pagamento, quindi è riuscito a vedere ti ha fregato il banco, Matt? No, è riuscito a vedere come digito le password. Sono troppo avanti i bambini, no, ma è una cosa incredibile. Questa cosa mi fa abbastanza la cosa che dicevi tu è giusta, però nel vostro caso, lo dico sinceramente, è talmente evidente la finalità che voi dite di far capire che è uno scherzo e di far capire che è una messa in scena, che poi alla fine si diverte moltissimo, ma proprio gli viene che sono giuste quelle cose che la mamma dice, quindi è divertente, in un certo senso fa diventare l'educazione che i genitori devono impartire parte di un gioco che può anche essere divertente, quindi in questo riesce. L'emulazione, forse, che era quello che dicevi invece tu, è più preoccupante, perché ovviamente come un tempo tutti volevano essere, Kerouac. No, ad esempio i prank che noi facciamo in giro, che abbiamo fatto, gli scherzi. Abbiamo fatto uno scherzo sulle scale mobili, che ci siamo finti, cioè, ad esempio, omosessuali, vedere la reazione delle persone, no? Ma poi si è rivelato un esperimento sociale. Esatto. Perché noi cosa abbiamo fatto per le persone in radio, che magari non hanno visto il video? Noi siamo andati in un centro commerciale, scale mobili, e noi ci eravamo sulla scala che saliva e le persone erano sulla scala che scendeva. Noi ci siamo finti gay, nel senso che le persone che scendevano gli accarezzavamo il braccio, la mano, gli mandavamo i baci da lontano e quindi loro si giravano, ma non potevano rincorrerci perché noi con la scala mobile stavamo salendo, e ci siamo resi conto che dallo scherzo è diventato un esperimento sociale, sì, cioè tante persone hanno ancora questo concetto di omofobia in Italia, e quindi alla fine anche questo contenuto, che può sembrare all'apparenza simpatico, ha sotto un esperimento sociale. Ti rendi conto che ancora tantissime persone Le persone che ti rimandavano un bacio, che capivano che stavi giocando. Perché alla fine stai mandando un davvero bacio, non stai facendo capito? Sono 2000 ragazzini messi qua, però dobbiamo gridare tutti quanti per la Scrum Challenge. Qua direttamente da Scappia, noi siamo arrivati a Torino, raga, cioè abbiamo fatto un po' di strada, quindi abbiamo tutta sta strada per contro il bullismo. Voi avete mai subito bullismo? Lui. Io sì, cioè, anch'io una volta in prima media, un ragazzo più grande. E come hai reagito? Ho reagito che ero impaurito, ma l'ho detto subito a mia madre, ai miei amici a scuola, e sono riuscito a uscire fuori, ma avevo paura sempre nei primi periodi, però ci sono uscito, parlando comunque. E sono capitati episodi di bullismo che voi avete visto? Non vissuto, ma visto? Ma probabilmente sì, ma all'inizio sembra che si faccia come uno scherzo, no? Esatto. Quindi tu dici, ma sì, non è bullismo. Poi invece capisci che in realtà per il ragazzo che tu pensi sia uno scherzo, in realtà poi arriva a casa e ci soffre. Io ad esempio quindi sono... magari da adolescente qualcosa ho visto e pensando fosse uno scherzo. Esatto, e adesso, ormai sono 4-5 anni che abbiamo finito gli studi, quindi adesso se ci ripenso ad alcune cose di quando andavo a scuola, che all'epoca mi potevano sembrare uno scherzo, ripensandoci adesso... Era una forma di bullismo. Anche se era uno scherzo, cioè nel senso... Vi chiedo un'ultima cosa, il vostro appoggio a una campagna contro il bullismo, ho letto, sì. È una cosa importante questa? Sì, molto, abbiamo fatto questa Scream Challenge, diciamo, siamo andati anche in tante scuole d'Italia. Siamo andati in tante scuole d'Italia a dire che il bullismo non è una cosa che bisogna tenere per sé, il bullismo da parte del bullo è scorretto. Forse la cosa più che ci è piaciuta di più, che ci ha gratificato di più, è fare un evento. Siamo andati in una scuola di Scampia, dove ci sono... Ah sì, ho visto. E davvero lì è stato... A parte come siamo stati accolti. Sì. Cioè, proprio quel giorno eravamo... Mi sentivo veramente... E diciamo che... Justin Bieber è arrivato a Scampia, erano molto contenti di vederci. Diciamo che se parla del bullismo un adulto, gli adolescenti... Cioè, io mi metto le panni, alla fine sono quasi loro coetanei, anche se ho 24 anni, ma sembro 18enne. Però... Si toglie la barba. Se io avessi avuto 16 anni, 17 anni, no? Mi parla uno grande del bullismo. Che sì, palle. Dai, che palle, due palle. Solita storia, capito? Invece, se lo dice già qualcuno che ti fa divertire, allora mi vedi, effetto, capito? Invece no. Dall'Istituto Galileo Ferrari di Napoli, anche noi vogliamo gridare contro il bullismo! Ma poi soprattutto se ne parlate voi vuol dire che è una cosa anche fuori moda. Cioè infatti, il concetto di dire che non solo è scorretto, non solo, ma è anche da sfigati, sì, no? Ma è da sfigati non denunciarlo, è da sfigati. Quindi bisogna ribaltare il meccanismo e dire che questa cosa va combattuta con gli strumenti dei giovani e per i giovani. Oltre ad essere carini, sono saggi, mi piacciono un sacco. Matte Bise, una mamma per nemica, è Mondadori. È simpatico questa cosa che avete voglia di una roba di carta. Benissimo. Molto bene, ciao. Grazie Matt, grazie mille. Abbiamo fatto non abbiamo fatto volutamente la versione pub. Allora, ti dico quando ci vediamo la prossima volta. Sì, sì, qua in diretta. Sì. Allora, ragazzi, ci vediamo il 7/7 alle 7/7. Vi aspettiamo tutti, perfetto. Matt e Bise qua con... Okay. 7/7 alle 7/7 ci siamo. Facciamo il saluto anche in radio. Facciamo. Saluto. 3, 2, 1, lo diciamo, Matt e Bise, voi dovete gridare fortissimo. Matt e Bise! Spaccando il microfono. Aspetta, però mi allontano. Siamo pronti? Guarda il fonico, mi sta preoccupando, sta sbuttando. Fonico, sei pronto? Sta abbassando tutti i DM. Allora, 3, 2, 1, Matt e Bise! Matt e Bise! Ciao ragazzi. Ciao. Beh Daniele, che grande, grandissima puntata di Radio Tube. Mi sono divertita come una pazza. Diamo l'appuntamento al prossimo sabato. Ci vediamo sabato, ci sentiamo. Grazie a Cristian Goldoni, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Ci ritroviamo il prossimo sabato. Ciao.